più salario meno orario, più salario meno orario, più trattenuti al signor Milan, più salario meno orario. Uno, nessuno, 100 Milan di Alessandro Milan con Leonardo Manera. Come più trattenute? No, non ho capito, ma perché più trattenute? Vabbè, per darle a Leonardo Manera vestaglione, ho capito, l'aumento di stipendio funziona così, come la teoria vecchia dei vasi netti, ecco, al mese. A Manera, come la teoria dei vecchi vasi comunicanti, un po' meno a me e un po' di più a lui. Va bene, il conto alla fine è lo stesso per l'azienda. Cari ascoltatori, siamo qui dalla ridotta di Viale Monza in diretta fino alle 10:30. Siamo con voi per una nuova puntata di Uno Nessuno 100 Milan con la nostra redazione dall'Alpino in regia, che manda già degli audio aggressivi, insieme a Luca Cremonese, che oggi ci aiuta con la nostra redazione, Lorenzo Nespoli, Miriam Lucchetti, Elisabetta Fusconi. Ci siamo come sempre sparpagliati ma uniti. E allora vogliamo dare i numeri di telefono 800 24 00 24, oppure 349 238 6666 per i vostri messaggi, i vostri WhatsApp, i vostri SMS. Devo dire che si sono un po' placate le mail degli insegnanti, che mi hanno scritto in tantissimi, anche altri contro gli insegnanti. Non era questo l'intento, mettere gli uni contro gli altri, ma cercare di ragionare sul fatto se sia giusto o meno iniziare una settimana di stop della didattica online, che inizia praticamente da oggi alle ore 13 più o meno. È la famosa settimana di Pasqua. Io ho semplicemente fatto notare qualche giorno fa che è una settimana di Pasqua, che in realtà non è una settimana di Pasqua, di ferie, perché sì, si sta a casa ma non ci si sposta. Allora forse si poteva in fase emergenziale sospendere questa settimana, ridurla e fare banalmente domenica e lunedì di Pasquetta, quando anche noi saremo in onda con un meglio di Uno Nessuno 100 Milan, e per il resto andare in onda, andare in onda con la didattica online, e quindi fare la didattica. Comunque, chiamatemi anche su questo tema, mandate mail a 100milan@radio24.it. Vai Alpino. Enthusiasm about the future. Devo dire che per quel che riguarda la lettura dei giornali, trovo, ma è gusto mio personale, ditemi se sbaglio e ditemi la vostra, sempre meno interesse sulla questione, le polemiche di ogni giorno, la questione delle mascherine, la fase 2, quando parte la fase 2, le date a un certo punto viene da giocarle all'otto, se il lotto fosse, il lotto è sospeso? Credo di sì, una bella sfida Lucchetti subito, il lotto credo che sia sospeso, non gioco all'otto quindi non lo so, ecco le date della ripartenza, giocatevele all'otto, il 3 maggio, il 4 maggio, dopo Pasqua, dopo il ponte del 1 maggio, sul quotidiano nazionale c'è l'Italia fuori dalla pandemia il 19 maggio, segnatevi questa data, cosa succederà così il 19 maggio, non lo so. È una previsione che viene da Washington addirittura, sull'evoluzione del coronavirus in Europa, elaborata dall'Institute for Health Metrics and Evaluation a Washington, che dice l'Italia sarà fuori dalla pandemia il 19 maggio con 20.000 morti. Io non lo so, volete fidarvi di queste cifre? Non lo so. Subito la sfida Lucchetti è vinta, ovviamente sospesi lotto e superenalotto, non si gioca nemmeno online, per me il problema non c'era. Comunque sono poco appassionato a questo tipo di cifre, a questo tipo di polemiche, sono più appassionato al dibattito scientifico. Tra l'altro oggi Michele Serra sulla Maca di Repubblica scrive giustamente che una cosa positiva, vogliamo guardare il bicchiere mezzo pieno, vogliamo guardare qualcosa di positivo anche in questa situazione di tragedia, beh, una cosa positiva c'è, che è il ritorno, la rivincita dei competenti, delle competenze, della scienza. Scrive Serra: fino a 3 mesi fa, se un imbecille, dopo aver navigato un paio d'ore sui siti strampalati, si sentiva in grado di smentire un virologo che aveva studiato tutta la vita, era solo un imbecille. Oggi lo stesso imbecille sarebbe da considerare anche un nemico pubblico. Ecco una cosa che davvero è cambiata, e speriamo per sempre, con la pandemia. Quel processo di quasi azzeramento delle competenze che negli ultimi anni aveva galoppato nelle società occidentali e dilagava il fai da te della rete è stato quasi azzerato da una travolgente domanda di competenze. Mai visti e sentiti tanti scienziati, medici, ricercatori, statistici, epidemiologi in TV, in radio, qui su Radio 24, anche questo Serra non lo scrive ma lo aggiungo io, sui giornali, ovunque si tenti di dare qualche risposta sensata all'emergenza. Ed è vero, aggiunge Serra, anche la scienza può essere divisa, può essere non unita, anche la scienza può avere degli approcci magari diversi, però accidenti. Che bella notizia, cioè finalmente è tornata la scienza al potere. Adesso si sentono medici, scienziati, quello che vi ho detto da giorni, io non vi leggo quello che sono sui giornali, le previsioni, ma poi dopo dico, che ne so, professor Burioni, buongiorno, professor Galli, buongiorno, professor Remuzzi, buongiorno, diamo la voce a loro, come fa anche Nicoletta Carbone dalle 10.30 alle 11, e sentiamo loro, perché hanno studiato più di noi. Per esempio, mi incuriosisce la storia di questo signore di Seattle, raccontata oggi da Gabriele Beccaria sulla Stampa a pagina 9. Questo signore, che si chiama Ian Aidan, si è fatto iniettare il vaccino anti-coronavirus. Perché alle 9 dell'8 aprile 2020 a Seattle già stanno facendo i primi studi e si fanno sugli umani. Eccolo qua. E questo signore l'avrà fatto, direte voi, per soldi? Beh, no, prenderà $1,000 in realtà. Ebbene, questo vaccino, studiato dalla società biotech Moderna Therapeutics, si basa su una manipolazione dell'RNA, il materiale genetico del coronavirus, perché una parte inserita in una nanoparticella lipidica, cioè grasso, entrerà nell'organismo di questa cavia, chiamiamola così, e dovrà produrre la proteina con cui il coronavirus attacca le nostre cellule, la famosa e maledetta proteina Spike. A quel punto il sistema immunitario di Aidan dovrà produrre gli anticorpi e quindi, come succede con ogni vaccino, immunizzarsi. E questo mi incuriosisce la storia, il perché lo faccia. Dice: i miei genitori sono orgogliosi di me, e la fidanzata non si capisce, non si è pronunciata, riceverà $1,000, appunto, poca roba, ma sono i primi test sul vaccino. Quando il vaccino arriverà, tra l'altro, ecco, faccio questa piccola polemica, sarebbe il caso di vedere i Novax, i famosi Novax, ultimi nella fila a ricevere il vaccino, così per coerenza e non per cattiveria mia nei loro confronti, per coerenza loro, sono Novax, vi daremo il vaccino solo se ci saranno dosi per tutti quanti, prima coloro che hanno sempre creduto alla scienza, poi se ci sono anche gli ultimi vaccini li daremo anche a quelli che i vaccini non li hanno voluti. Vabbè ragazzi, intanto un'altra cosa positiva è che forse riapriranno le librerie dopo Pasqua, così ho letto da qualche parte, forse le prime attività che potrebbero riaprire sono quelle, non vedo l'ora di poter dire: dove sta andando lei? Sto andando in libreria, bello bardato, chiuso, con la maschera, sto andando in libreria a prendere un bel libro. Ah, che problema c'è? Sto andando in libreria a comprare un libro. Questo è il mio sogno, di poterlo dire presto, speriamo bene. In tutto questo ci sono, ormai sono diventate delle macchiette, le vicende delle persone che vanno in giro, i sindaci che le riprende, c'è il sindaco De Caro che ha inventato questo nuovo format paratelevisivo, e cioè il sindaco De Caro, il sindaco di Bari, nonché presidente dell'ANCI, quindi di tutti i comuni italiani, che va in giro a redarguire le persone. Vai Alpino. Devi stare a casa, se c'hai problemi scendi, fai la spesa e te ne torni a casa. la spesa te la portiamo noi, puoi fare il domicilio, ci sono i volontari del comune, non devi andare in giro, no, stavo andando a mangiare da mia figlia. Perché secondo te io non voglio andare a mangiare da mio padre e mia madre? O loro non vogliono venire, io abito a 20 metri dai miei genitori, 20 metri! E non ci va, c'è il sindaco di Bari, De Caro. E poi, vabbè, c'è una signora, c'è il colore che diventa macchietta, come quella signora pizzicata a Grado, che è uscita di casa per fare la spesa non una, non due, non tre, non cinque, non dieci, 11 volte in un giorno. All'undicesima volta la polizia locale ha detto: ah, signora, signora bella, signora nostra, 11 volte adesso ti becchi la multa. Che dobbiamo fare? Ci vorrebbe fare una bella passata di Miccio del Boe, il logo. Il nostro Giuseppe da Reggio Calabria, ascoltatore, ci ha fornito questa spiccia soluzione: le nerbate di Miccio di Boe in loco, appena preso. Va bene, c'è quindi anche del colore, ma purtroppo c'è la tragedia. Allora, poco fa avete sentito, c'era l'assessore alla Regione Lombardia Gallera, da Simone Spezia e Maria Latella, ricostruiva tutta la vicenda di Alzano e Nembro, i comuni più colpiti nella Bergamasca. Io saluto il sindaco di Nembro, Claudio Cancelli, che torna qui a Radio 24. Buongiorno e grazie, sindaco. Grazie a voi. Guardi, ci aiuterà in questo Alfonso Celotto. Alfonso Celotto, che collabora da anni con diversi ministeri, è un esperto davvero di burocrazia, lo dico, insegna diritto costituzionale, ha anche il suo famoso alter ego Ciro Amendola, con cui scrive libri divertentissimi, spassosi sulla burocrazia italiana. Professor Celotto, eccoci e buongiorno. Buongiorno, con piacere. Allora, anche se sono giorni tristi per la burocrazia. Sono giorni tristi, eh sì. Ecco, a proposito di burocrazia, vuol dare lei una risposta? Ce l'ha lei una risposta da dare al sindaco di Nembro? Perché in Italia siamo talmente bizzarri che io sono sicuro non riusciremo nemmeno a capire chi avrebbe dovuto, nel caso, istituire la zona rossa ad Alzano, chiudendo il pronto soccorso di Alzano, tra governo centrale e Regione Lombardia. Lei, carte alla mano, Celotto, ha una risposta da dare al sindaco di Nembro? Certa al 100%, sì o no? Allora, il diritto non è certo, perché il diritto non è una scienza esatta. E poi, di fronte al sindaco di Nembro, in un caso del genere, veramente mi sento in imbarazzo come giurista a dover discutere di feudalesimo all'italiana, perché noi stiamo discutendo di questo, di un problema tradizionale, che è il fatto che noi abbiamo troppi enti e troppe competenze, e quindi questa stratificazione di enti e competenze poi in un caso del genere può avere conseguenze drammatiche, perché stando Costituzione alla mano, su un tema del genere poteva intervenire il governo e poteva intervenire la regione, cioè entrambi avevano i poteri per farlo. Benissimo. In base a due leggi differenti: la legge di protezione civile per lo Stato, la legge sanitaria, la 833 del 78 per la regione. Ci sarà una legge che prevale sulle altre, no? Dal punto di vista della normativa, o se no? Se ci fosse una legge che prevale sulle altre, noi avvocati non esisteremmo, no? Questo ce lo insegnava Cicerone. E quindi, ma perché ci sono queste più leggi? Per dare a tutti le possibilità di agire. Io non conosco poi bene i fatti, non capisco perché è stata chiusa Codogno e non Alzano e Nembro. Però certo, carte alla mano, poteva farlo la regione e poteva farlo lo Stato. Carte alla mano, certo. Carte alla mano. Esatto. Beh, questa quindi è una risposta chiara, che in realtà non fa chiarezza, non perché non sia chiara la risposta, ma perché nella burocrazia spesso non c'è chiarezza. Posso sindaco Cancelli. Sì, prego, ce l'ho. Lo diceva la Secca Garbugli, tante volte abbiamo richiamato Manzoni in questi giorni. La Secca Garbugli dice a Renzo, dice all'avvocato: le cose raccontatele chiare, che a complicarle ci pensiamo noi. Ecco, sindaco Cancelli, è chiaro che ci sarà poi il tempo delle polemiche, ci sarà il tempo delle inchieste, delle ricostruzioni. Questo è ancora ovviamente il tempo in cui Nembro, come Alzano, come tanti comuni, piangono i morti. So che lei, tutti i giorni ha questa conta. Si è un po' fermata questa conta di morti, di persone che non ci sono più, o no, sindaco? Sì, devo dire che si vede davvero un calo consistente nella sequenza dei deceduti nel corso dei giorni. Abbiamo avuto nell'ultima settimana 0,1,2,0,0,1,1 decessi, quindi rispetto alla settimana nera di metà marzo, dove avevamo una media di 10 decessi al giorno, stiamo avvicinandoci a una situazione di normalità. Questo ci deve dire anche che dobbiamo mantenere la barra ferma. Certo, in tutta la comunità ci può dire quanti abitanti sono, quanti ne avete perduti? Sono 11.500 abitanti che dall'inizio della, diciamo, di questa emergenza hanno visto 166 cittadini perdere la vita. Quindi siamo oltre le percentuali di mortalità associate al Covid-19. Certo, lei ha capito, ha avuto tempo per fare una sorta di ricostruzione di quello che avrebbe quello che potrebbe essere successo? Ma guardi, chiaramente si sono partite delle situazioni gestite in maniera non ottimale in alcune strutture. Inevitabilmente le strutture come gli ospedali, le case di riposo hanno condizioni di maggiore difficoltà nella gestione di questa, di questo tipo di emergenza per la natura dell'epidemia. Poi noi abbiamo una realtà di forte socialità, forte associazionismo, e questo sicuramente ha creato tutta una serie di condizioni di incontro tra le persone che poi sono state anche luogo di trasmissione. Credo che poi, oltre alla riflessione sulla zona rossa, ci sarà da ragionare quando poi avremo risolto questa emergenza su come sono stati gestiti altri aspetti. Questo non tanto per mettere qualcuno al muro, ma per capire anche gli errori o le per cose esempio, che avrebbero potuto no, perché la zona rossa lo possiamo capire tutti, cioè può essere stato un errore o no, qualcuno lo accerterà averla fatta in ritardo. A che cosa si riferisce invece lei, ma, per far capire lo ascoltatore? Per esempio, noi abbiamo il problema di capire se l'utilizzo un po' di tutti gli ospedali per ricoverare i malati di Covid sia stato meno positivo rispetto alla capacità del sistema sanitario di affrontare l'emergenza e non invece fare degli hub specifici. Ecco, io non sto dando delle risposte, però sono temi che io mi pongo. Certo, fa delle domande giustamente a cui. Il tema della medicina di base che non è stata probabilmente adeguatamente supportata, perché avere dei medici di base con i dispositivi di protezione che continuano a fare le visite domiciliari, evidentemente fa sì che le situazioni di gravità vengano affrontate subito e prima, e questo aumenta sicuramente la percentuale di possibilità di guarigione e di riduce la mortalità. C'è stata un'incapacità da parte del sistema di fornire, per esempio, a tutti gli operatori, sto pensando anche agli operatori delle case di riposo, tutti quelli delle comunità, dispositivi di protezione individuale che permettessero di gestire queste situazioni con tranquillità e sicurezza. Sì, io dico, ci sono tanti aspetti e sono tutte domande lecite quelle che fa. La mia opinione, ma anch'io non sono esperto, è che eravamo impreparati, e questo non c'è dubbio, ma non noi, il mondo, lo vediamo in America, lo vediamo in Inghilterra, dove hanno un premier che diceva ma no, è un'influenza, e adesso purtroppo per lui si ritrova addirittura in terapia intensiva. Cioè tutti eravamo impreparati di fronte a questo tipo di emergenza, non che questo sia una scusa, ma temo che questo per il futuro almeno debba essere un insegnamento. A questo proposito, per il futuro, professor Celotto, io ho sentito, lo faccio sentire da due giorni, Zingaretti, segretario del PD, da Fabio Fazio, dire domenica, dobbiamo cogliere questa opportunità e semplificare l'Italia, sempre renderla, se non facciamo questo in questa occasione abbiamo perso l'occasione della vita. Le faccio questa domanda: la perderemo questa occasione della vita, professor Celotto? Allora, il problema della riforma della burocrazia è un problema antico. Se noi prendiamo il manifesto di Don Sturzo del 1919, chiede semplificazione della burocrazia e della normativa. Se noi prendiamo discorsi di Cavour dell'852, chiede di eliminare landi di vini di carte. Se noi prendiamo discorsi di Mussolini, se noi prendiamo addirittura nel 1950 De Gasperi istituisce il Ministero della Riforma Burocratica, cioè questo ci fa capire che la burocrazia è un problema antico. La burocrazia è una garanzia del cittadino, ma si è complicata troppo, in troppe leggi, troppi enti e troppi procedimenti. Si può semplificare, ma è difficile farlo, e molto spesso tutti questi ministri con programmi anche ambiziosi sono stati in carica un anno e mezzo, e non ce l'hanno fatta a portarla a termine, anche perché, ma questo il sindaco lo sa, perché quando si fa una conferenza di servizi, e una conferenza di servizi chiedono 30 soggetti, Noi abbiamo ancora una normativa che non riesce a metterli tutti d'accordo, quindi le conferenze di servizi, per fare solo un esempio, durano anni. Si può semplificare, però ci vogliono scelte coraggiose, perché o la velocità o la completezza del procedimento, ormai lo sappiamo. Le ha viste anche lei, per esempio, i moduli che molti imprenditori portano in TV, di fatti, non so, di 150 pagine per cercare di fare una domanda per chiedere l'autorizzazione, non so, a prendere a lavorare, cioè, capisci? Ma poi aggiungo di più. Tutti questi moduli cominciano sempre con nato, residente, codice fiscale, partita IVA, che sono tutte cose che le prefetture, i ministeri sanno già, no? Questi moduli, quindi ancora ottocenteschi all'epoca della digitalizzazione. Io penso, spero che questa grande occasione ci abbia fatto capire che la nostra burocrazia già non funzionava, che l'amplificatore, perché questa crisi è un amplificatore di tutto, anche dei mali della burocrazia, che qualcuno prenda la buona volontà. Ci sono 4-5 cose che si possono fare, soprattutto me dica una, col digitale. La prima. 4-5, siamo troppo ottimisti. Un'app, una sola, dove il cittadino parla con tutte le pubbliche amministrazioni. Perché in questo momento una, dove io parlo con l'INPS, col comune, con la regione, con l'ACI, con tutti quelli che mi interessano. Perché in questo modo io, cittadino, parlo con lo Stato e lo Stato mi risponde con una sola voce. Questa è una cosa che si potrebbe fare, è che oggi invece noi abbiamo l'app dei carabinieri, l'app della polizia, l'app del 118, l'app del comune, è quello, no? È la volontà di riunificare, noi siamo ancora feudali in questo, cioè ogni l'Italia è fatta di tanti piccoli poteri. Ma d'altronde esatto, il burocrate ti coltiva il proprio orticello e se lo coltiva sa che ci sarà sempre da mangiare per lui e per la sua famiglia. Devi sempre venire qui a mettere il timbro da me. Esatto. No, io nel ringraziarvi, Sindaco Cancelli, ci sarà un momento, io ho detto non guardo più le date, cioè il 19 maggio, il 5 maggio, il 4 maggio, dopo il 1 maggio, dopo Pasqua, robe veramente se ci fosse il lotto da giocare al lotto per chi ci crede, però ci sarà un giorno in cui si potrà dire anche Nembro ripartirà. Lei crede a quella che per me è un po' retorica del saremo migliori? Non mi dica lei come ne uscirà una comunità dopo tutto quello che ha passato, una comunità come Nembro? Ma guardi, dire saremo migliori di fronte a quello che è successo e quindi ai dolori e ai lutti è difficile, però io credo che sia davvero così, cioè io quello che ricevo dalla mia comunità tutti i giorni sono una continua serie di esempi di solidarietà spontanea da persone con grandi risorse, persone con piccole risorse, persone che ci mettono davvero il cuore. Se c'è una cosa che sto vivendo è questo grande senso di solidarietà, di sobrietà, di consapevolezza del momento che abbiamo di fronte, e devo dire che questa cosa ci riempie il cuore davvero rispetto alle prospettive future. Saranno tempi duri, perché oggi comincia a emergere o superata quella che può essere l'emergenza sanitaria nell'intensità che abbiamo vissuto nelle settimane precedenti, siamo di fronte adesso a un'emergenza sociale, tante persone che hanno perso il lavoro e non sarà semplice ripartire, e noi dobbiamo anche porci questi problemi. In questo momento stiamo facendo anche dei ragionamenti su quello che succederà, su come il Comune potrà aiutare sia in termini di opere pubbliche, quindi di lavoro, ma in termini anche di sostegno economico in maniera efficiente, capace e rapida, quelli che sono le persone in difficoltà. Io nel ringraziare il sindaco di Nembro Claudio Cancelli, nel ringraziare il professor Alfonso Celotto, vi consiglio sempre di leggere i suoi libri firmati da Ciro Amendola, ma è sempre lui, a volte è Ciro Amendola che diventa Celotto o Celotto che diventa Ciro Amendola. E il sindaco di Nembro ha detto una cosa giusta sulla questione del lavoro, mi permette di leggere qualche riga di Massimo Gramellini oggi sul Corriere della Sera, che dice proprio questo: esatto. Su 10 persone al mondo che lavorano, 8 sono chiuse in casa, e di queste 8 una non troverà più il suo posto quando tornerà a lavorare, non lo troverà, e delle rimanenti 7, 5 dovrebbero poter riprendere da dove si erano interrotte, ma le altre 2 no, quindi 3 persone su 8 dovrebbero perdere il posto di lavoro. Che fare? Ecco, tra l'altro la soluzione di Gramellini mi fa un po' sorridere, perché è un po' il tema: serve sburocratizzare, meno timbri, meno mazzette potenziali. Chissà se sarà così. Intanto io vi ringrazio, vado un attimo in pubblicità. e poi sarà con noi il professor Crepè, che ha lanciato un tema, lui psichiatra, a dire: ma come mai nella cabina di comando, nelle direzioni scientifiche, nel comitato scientifico, non c'è neanche uno psichiatra, non c'è neanche uno psicologo? La crisi è molto anche psicologica, si sta trasformando in una crisi psicologica per molti italiani. Ne parleremo con lui e con Vestagliona Manera, che arriva. Uno, nessuno, 100 Milan. Hi, my name is Stereo Mike. Are you gonna allow in if you want to answer a couple of questions? Milan, ma Pasqua dell'anche vena aprono, no? Quella di quest'anno, né? Perché se mi vado in ufficio e ce l'ha la gente senza mascherina che usa i servizi comuni, le parti comuni, e il droga mia la mascherina, e invece me vieni fuori dall'ufficio e godo camminato in sulla strada e trovata la mascherina, a te mi dice che differenza c'è, che te dimmi che differenza c'è, dai, dimmelo, dimmelo qua in Lombardia. Caro signor Milan, posso essere libero di non farmi un vaccino? Ma devo essere per forza obbligato? Il 95% si vaccinerà e avete risolto il problema. Caro Milan, parole sante, se ne avanza bene, se no stanno senza, ma non si sono più sentiti, dai, sono spariti assieme alle sardine, non si vedono più, dai, buongiorno. Vabbè, adesso non accomuniamo i Novax alle sardine, le sardine non si vedono perché non si possono trovare. Oddio, cosa sta facendo adesso? Manera! Buongiorno, buongiorno a tutti. Cosa mi sono appassionato alla pistola a vapore, è da ieri che la uso in tutti i momenti. Ma sai che ieri è arrivata una mail di uno che ha scritto: grazie, anch'io ce l'ho, mi avete fatto scoprire che in cantina da qualche parte ho la pistola a vapore igienizzante. Ma che cavolo è? Da 8 anni me la sto usando adesso, bellissimo, pulisce tutto. Buongiorno, ti prego, possiamo fare tutta la trasmissione con questo sottofondo che è fastidioso quanto per te la sigla della borsa? La uso l'ultima volta, fammela sentire. Cosa stai pulendo in questo caso? Adesso sto pulendo il lavandino, il lavello della cucina. Con la pistola, mi fai sentire perché è rimasta qualche briciola lì nell'angolo, la puoi togliere. Sto igienizzando tutto. Tra l'altro ho scoperto che va bene anche per pulire il legno che magari è rimasto un po' unto, basta. Ma non lo, con la pistola. Non lo deforma? No, non lo rovina, no, è il modo migliore per pulire. Voglio fare una trasmissione di pulizie domestiche. Va bene, allora, voglio leggere questa mail che è arrivata. Salve Alessandro e Leonardo, sono Daniele, l'empolese di Pisa. Già così, sono l'empolese di Pisa. Quello tra l'altro che ti scrive spesso su Instagram, dice: sono non vedente, faccio il masso fisioterapista all'azienda ospedaliera universitaria pisana, anche se sono a casa dal 13 marzo. Vi devo dire che nonostante la mia disabilità, che non mi ha mai dato tristezza, vivo le giornate serenamente, godendomi maggiormente la famiglia, mia moglie e il figlio che sta con noi. Va bene, mentre Manera pulisce, volevo salutare, mandare un abbraccio all'empolese di Pisa e salutare il nostro professor Paolo Crepè, psichiatra, scrittore. Buongiorno professore. Buongiorno, buongiorno a voi. Lei pulisce? C'ha l'accanimento alla Manera da pulizia compulsiva a casa? No. Mi manca quella, poi le ho tutte. A tutte. Senta, lei ha lanciato un messaggio. Sì, ha lanciato un messaggio, secondo me, importante. Dice: ma come mai in questi comitati scientifici non c'è uno psicologo, non c'è uno psichiatra, quando la crisi è diventata, ormai si è trasformata in una parte anche una crisi psicologica per molti italiani? Ecco, come mai? Non dovrei chiederlo a lei, lo so. No, ma sì, appunto. No, è perché non gliene frega niente a nessuno. Credo che la risposta sia questa, che non gliene frega niente a nessuno di quello che succede dentro le famiglie, che non gliene frega niente a nessuno di come stanno i bambini, di come stanno gli adolescenti, di come stiamo anche noi, di come stanno le coppie che scoppiano. La psicologia in questo momento è l'ultima delle cose, invece è la cosa. Perché sopravvivrà sopravviverà al virus. E noi sì. continueremo ad avere problemi psicologici oltre il virus. Ma questo è del tutto perché evidente. Giustamente lei dice non bisogna solo stare a casa, bisogna vedere come continuerete, continuerete a, a pulire gli ascensori dove siete stati. È evidente, perché saremmo diventati tutti ossessivi, tutti i mezzi, nessuno toccherà nessun altro. Non so, pensate all'amore. Sì, pensate due ragazzi che si innamorano. Dice, guarda che bella quella lì, però 1,80 m, non di altezza, di distanza. Di distanza. È un po' difficile. No, ma no? Perché, scusi, ti perché lei dice... Foto, come li fai? Perché lei dice proprio non interessa a nessuno, cioè non interessa a nessuno come quando stiamo, lei non il fa benessere. Una cosa, vede, quando lei non fa una cosa è perché non le interessa. Guardi, la psicologia non è così complicata, eh. Allora, se lei non gliene frega e non parla mai di automobili, è perché non gli interessano le automobili. Ecco, io penso. Giusto? Allora, sì. Anche a me non è che mi interessano molto. Allora, se nessuno di tutta la compagine, ministro, sottosegretari, che sono tutti lì a dire che no, il plateau, che sembrano proprio... No, il plateau, una roba, adesso abbiamo il plateau. Sì, sì, è insopportabile. Sì, lo so. Sì, roba, io ho detto non roba, so se odio roba, più plateau sì, o picco, da gourmet. Lockdown, sì, vabbè. Sì, lockdown, che poi tutto chiuso, poi adesso c'è la Cina ha richiuso un'altra volta. Cioè, voglio dire, allora, non capire che queste settimane che sono diventate mesi e che nessuno può dire quando, anche credo, anche i maghi sono taciuti in questo momento perché sono intelligenti, perché neanche loro lo sanno, no? Però il governo sì, e ci dà il contentino, perché siccome siamo tutti deficienti, no, ci dà il contentino, ci dice che adesso forse si apre una fabbrichetta, però a scacchiera, poi le scuole, ma forse perché non lo sanno, in realtà scuole, forse non lo sanno, no? Professore, ma come chi se allora, ne frega se non scuole? Lo sanno, si tacciano, bisogna stare zitti, non abbiamo bisogno di uno che ci dà le pacche sulle spalle, anche perché nessuno ce le può dare, fra l'altro, perché è contaminante. Quindi, no, però è interessante, allora, come ne usciremo? Cioè, effettivamente, Leonardo, tu hai capito, come ne usciremo? Qui il professor Crepelli ci dice, poi conteremo i danni psicologici e psichiatrici. Enormi. Ne abbiamo enormi. Già parlato altre volte, che c'è un po' di infantilizzazione di tutti noi cittadini, veniamo un po' trattati come bambini, l'avevamo già detto, ma poi questo aspetto dei problemi psicologici non è in generale lo specchio di un atteggiamento più generale verso quel tipo di problemi che vengono sempre visti come cose un po' minori, come dire, ma sì, dai, in fondo cosa vuoi che sia, anche pacca nel resto spalla, della vita e non solo in questa emergenza. Sì, ho capito, il problema è che sì, questo poteva andare bene nei tempi in cui stavamo tutti bene, in cui l'economia andava benino, eccetera. In questo momento c'è un problema psicologico che anche il più ottimista, non riesce a non aver paura, perché è una questione di prospettiva. Cosa succederà anche se si apre la fase 2, la fase 3? Cosa sarà comunque di noi? Ma lei andrebbe in un ristorante dove invece che i 10 tavoli ce ne sono 3? Ma ti viene una tristezza che esci. Non so se riesco a spiegare. Però sì, questo è il tema. Manca agli italiani, non so che più telefonate, pazienti. No, le immagini, chi fa il mio mestiere, le telefonatine che riceve, lei può immaginare, no? Cioè, il minimo, ho perso tutto. L'inizio più dolce è ho perso tutto. tutto. Però le faccio questa provocazione: come se ne dovrebbe occupare, non so, un governo e un'autorità? Cioè non è questa la salute mentale demandata, come dire, a un rapporto tra soggetti privati e psicologi, soggetti privati e psichiatri? Cioè come dovrebbe fare un'istituzione invece a gestire il benessere delle persone? Ma per quale motivo al mondo l'economia è più importante della qualità della nostra vita? Per quale? Una domanda interessante. Spiega, perché per alcuni il denaro dà una parte della felicità. Ma sono dei gran coglioni. Ma sono dei gran coglioni, perché se tu sei depresso, e quell'azienda non la fai andare, non hai un progetto, non ti viene un'idea nuova, non ti viene un mercato nuovo. Perché questo è il momento in cui, per stare bene, sa cosa ci vuole? Ci vuole il progetto. Mm-hmm. Bisogna avere un'idea nuova, bisogna dire ok, quella roba lì non funziona più, però faccio quell'altra cosa. Il progetto ce l'ha, che ne so, Prada, che invece che fa il vestitino per le fighette, fa mascherine. Allora questo, certo, è già un progetto. Lei dice, se uno è depresso queste idee non ti vengono. Ma certo che no, se uno è depresso e pensa che non se ne esce, che quest'estate non posso mettere un ombrellone, che quest'estate non nella mia cosa, nel mio stabilimento non ci sarà uno sdraio, no? Cosa pensi, che arrivino i tedeschi a novembre? No, forse la questione è che sanno che è così e sarà si così, sfogano purtroppo. Con qualcuno, ma non è vero, perché poi ci sfoghiamo con qualcuno, perché siamo esseri di relazione, non siamo animali, non siamo monadi, siamo persone che anzi oggi siamo costretti ad avere relazioni. Sì, che con persone con cui non tutti sceglierebbero. Esatto. Io mettiamola così, perché è così, perché non facciamo gli spiritosoni, perché c'erano delle coppie in crisi a Natale, si figuri adesso. Certo, è strano, certo, che abbiano tutti e due quattro occhi ancora il loro posto. Qui, lei pensi un bambino, chiamiamolo iperattivo, che in realtà è un bambino molto vivace, che gli fai fare lo sport, che fa tante cose, eccetera, eccetera. Pensi quel bambino costretto, ingessato, per due mesi, e te lo devi tenere lì con forse una maestra che parla attraverso un computer. C'ho un problema pratico. Mio figlio, che faceva tre allenamenti di basket a settimana nella partita, non ci ha pensato nessuno. Ma perché i francesi hanno pensato, noi no? Perché siamo i più intelligenti del continente? Poi dicono che non contiamo niente in Europa, ma per forza. Certo. Professor Crepè, Maniera, è interessante, sì, è una domanda. A Parigi hai la possibilità di fare un chilometro di raggio. È vero. Ma sai cosa vuol dire? Che sì, da noi sono 200. Hai litigato metri, con tua moglie, perché non ne puoi più. Si potrà o dovrei andare in galera? No, hai litigato con tua moglie. L'unica cosa che consiglierei: prenditi il cappotto se fa fresco e fatti una passeggiata con o senza cane, o magari con tuo figlio. Basterebbe questo per dare un pochino di benessere psicologico, Leonardo. Volevo chiedere se per stare un po' meglio dentro le case può essere anche utile avere una progettualità per ogni singola giornata. Ma sì, certo che sì. Sì, però poi le progettualità finiscono anche quelle se il luogo intanto, e poi vede anche lì, noi parliamo degli italiani, non esistono gli italiani, esistono 60 milioni di persone che vivono in Italia, perché la casa di Fiorello non è la casa di un signore che sta alla Bovisa in 43 metri quadri. Si chiama casa nello stesso modo, ma non è la stessa cosa. Quindi è facile fare il proclama dall'attico e superattico con piccola no, piscinetta privata, quando stai con tre figli in 40 metri quadri, è un po' più provi ad andare nei quartieri spagnoli a Napoli. Devi proprio andare nei bassi, nei bassi. Cosa facciamo? Li abbiamo tollerati fino a ieri, vuol dire che sono a regola, no? E adesso dentro un basso ci deve essere la nonna, il papà, la mamma, tre figli. Io non so, e nessuno pensa a questo, perché questo non è il problema. Il problema è aprire la fabbrichetta in Brianza, perché quella è la lobby che conta. Vabbè, professore, però lì almeno si mantiene anche il lavoro, perché se poi non c'è, perché, come dice Gramellini... Perché uno che sta in 40 metri quadri non mantiene un lavoro, perché c'è solo il lavoro e significa solo fabbrichetta. No, perché non può essere un falegname, il mio tappezziere è fermo, il mio tappezziere a cui avevo dato una poltrona da mettere a posto è fermo, non ha la fabbrichetta in Brianza, ha un piccolo laboratorio dove fa mangiare la sua famiglia, perché dipendono tutti da quella poltrona che gli fai rifare. Perché non può aprirla? E questo è perché il tema. Perché non può neanche uscire da casa e andare in bottega? Non si può, perché gli danno 5.000 euro di multa. Questi sono il tema e le domande, professore. Noi ci dobbiamo fermare, che siamo già un po' in ritardo, certo, per il traffico, però ci ha dato tanti spunti. No, ma giustamente il professor Crepè ci piace perché parla così, insomma, senza peli sulla lingua, e dice le domande che molti italiani poi si fanno. Allora, intanto noi nel ringraziarla, quando avremo un po' più di chiarezza e capiremo quando ne usciremo da questa benedetta fase 2, 3, 4, vedremo come ne usciremo e rifaremo il punto. Intanto andiamo a sentire le informazioni sul traffico. Uno, nessuno, 100 Milan. Don't you tell me that it wasn't meant to be. Milan, ma quali migliori? Questo virus ci ha già cambiato e ci cambierà in peggio. Quando finirà l'emergenza ci guarderemo tutti in cagnesco, saremo tutti arrabbiati, tutti più nervosi, ma quale migliori? We had a good thing going lately. E allora, migliori, peggiori, non lo so, Leonardo, sospendiamo il giudizio anche su questo. Secondo me uguali. Ma adesso dopo un po' torneremo come prima, non bisogna pensare che la situazione che stiamo vivendo adesso sarà così per sempre. È una parte della vita, una parentesi, poi torneremo coglioni come prima, dai. Eccolo là, Sandro da Milano. Buongiorno Sandro. Allora, buongiorno Milano, io volevo dire una cosa. Sì. Praticamente se ci fosse solo una camera di iperventilazione e fossimo due abitanti in tutta Italia, non sarebbe sufficiente per tutti. Quindi la premessa gliela faccio per dirle che con i tagli drastici che hanno fatto la sanità, a causa del signoraggio bancario e il debito pubblico, non c'è posto per tutti, quindi non è colpa mia se devo stare in casa richiuso come un topo, se non ci sono soldi sufficienti per la sanità per soddisfare tutte le esigenze delle persone che vanno in queste camere iperventilazione. Guardi che qualsiasi paese al mondo, se si ammalassero tutti contemporaneamente, non è che puoi fare 60 milioni di posti in terapia intensiva. Sì, le ricordo che l'anno scorso sono morte più persone di influenza normale che non di Covid, e voi giornalisti di questo avete la responsabilità di dire le cose come stanno. Cosa ci sta dicendo? Che è tutta una grande bufala quello? Se mi dice sono morti più di influenza che di Covid, vuol dire che l'influenza è più grave del Covid. Io parlo di statistiche del ministero, neanche loro lo sanno esattamente quanti morti sono, perché loro stamattina le statistiche del ministero hanno detto che neanche loro sanno esattamente quanti sono i morti di Covid. Loro buttano tutto nel calderone, cremano tutto e finiscono lì. Però io lo telefonavo per un altro motivo, per dire un'altra cosa. Lei ha detto che io mi dovrei mettere in fila per farmi l'eventuale vaccino. Il vaccino non me lo faccio, perché se lei sa chi è Montanari, io perché lei è un Novax, no, sì, non sono so Novax, chi è Montanari e non è il signor Montanari, lo conosco, l'abbiamo invitato una volta, non è uno scienziato e gli scienziati dicono che è un pericoloso propalatore di notizie false, però Sandro, prego, per lei sarà un guru, un dio no, sarà. No, io le dico che lui ha fatto uno studio sui vaccini, sul contenuto dei vaccini, non gliel'hanno voluto pubblicare, pena la sanzione. No, non gliel'hanno voluto pubblicare perché non è uno studio scientifico e gli scienziati l'hanno denunciato in quanto non scienziato. Ho capito, il microscopio elettronico perché gliel'hanno tolto, perché gliel'hanno tolto. Allora, la questione che io ho letto all'inizio, Michele Serra dicendo che finalmente l'unico aspetto positivo di questa vicenda è che sono scomparsi gli antiscienziati e invece ci sono, Sandro, però va bene, spero che siano sempre meno. Comunque, secondo lei, questa è la sua posizione, noi siamo aperti e ascoltiamo tutti, però posso anche dire la mia, cioè mi dico il professor Montanari, una volta l'avevo invitato, il professor Montanari è stato denunciato dal patto scientifico di scienziati perché propala, secondo loro, non lo sto dicendo io, è stato denunciato perché propala fake news scientifiche. Però Sandro invece crede al professor Montanari, va bene. Io tendo a credere a una comunità un po' più vasta scientifica. Sbaglierò io? Non lo so. Tu maniera chi credi? Sicuramente non a te, io penso che sbagli tu a prescindere. Allora ha ragione Sandro per te. Allora ha ragione Sandro da Milano per te. Ti lancio questa proposta in diretta. Giorno alla settimana possiamo fare un programma che non si occupa per niente di coronavirus. Lo chiamiamo Ora d'aria. Parliamo completamente di altro. Ora e mezza d'aria. Potremmo farlo. Parliamo completamente di altro. Potremmo farlo. Vai, Leo. Nel frattempo, parli in situazioni adesso, parlo di coronavirus stesso, ovviamente. Ma come? Ma scusa, comincia a fare i 4 minuti d'aria. Se va bene. Niente. O l'ora e mezza o niente. Allora. O niente. In situazioni come quella che stiamo vivendo, secondo me non c'è niente che sconcerti più delle opinioni discordanti. Infatti, mentre da una parte si comincia a parlare di fase 2, dall'altra senti virologi che dicono che ci vorrà non molto, ma moltissimo tempo prima di tornare alla normalità. E questo, su di me, produce un effetto devastante. Quando Conte parla di fase 2, comincio a essere un po' più ottimista, comincio a pensare che poco alla volta si ricomincerà a riaprire qualche negozio, avere qualche piccola libertà in più. Poi però, nelle trasmissioni monotematiche che si susseguono a profusione una dopo l'altra, trovo inevitabilmente il virologo che fa precipitare quel mio barlume di ottimismo nel baratro più completo. È come avere a che fare con una donna che ti dice ci sto, come direbbero a Napoli, ti fa uscire pazzo. E allora io ho una richiesta, anzi una preghiera. Fate solo comunicazioni ufficiali, nelle trasmissioni non intervistate decine di virologi, ognuno col proprio punto di vista che non collima mai esattamente con quello dell'altro. Dateci solo comunicazioni ufficiali come se fossimo in un regime e non contrastanti, perché altrimenti usciremo forse un giorno dal coronavirus, ma mentalmente così provati che ci sarà un'altra emergenza, però psichiatrica. L'altra cosa che non ho capito è la copertura di naso e bocca. Qualcuno forse può aiutarmi. Per mesi ci hanno detto che non erano necessarie le mascherine. Adesso almeno in Lombardia sono obbligatorie. Ma pare anche che, in mancanza di meglio, almeno ci si debba coprire naso e bocca, che so, con una sciarpa, un foulard, al limite anche con una mutanda calzata sulla bocca all'uopo. Va bene anche la coppa di un reggiseno, di una donna non troppo dotata, non una sesta che sarebbe troppo. L'ideale per difendersi sarebbe una seconda, ecco. Ma io forse ho capito qual è il fine ultimo, lo scopo di questa comunicazione non sempre lineare. Lo scopo è quello di disorientare anche il virus. Lo scopo è quello di far sì che anche il coronavirus abbia una crisi di identità, non capisca più chi è, quali sono le mascherine che lo possono bloccare, qual è la distanza fino alla quale può infettare e infine, non avendo le idee chiare, si ritiri di buon ordine rientrando una volta per tutte nei pipistrelli. In tutto questo noi italiani invece nella grande maggioranza stiamo cercando di capire, di adeguarci, di comportarci bene, muovendoci circospetti tra le varie informazioni che ci vengono date. Abbiamo capito che l'importante è evitare assembramenti, ma soprattutto abbiamo capito cosa significa assembramento, che non era così scontato. E pensate come sarà bello quando un ragazzo, un bambino, tra qualche tempo, uscendo di casa, finalmente potrà dire: mamma, papà, esco, vado a fare un assembramento. Ecco, quello sarà il momento in cui finalmente saremo tornati alla vecchia, difficile ma rassicurante normalità. Bello, esco papà a fare un assembramento, non è male, non è male. Allora, io credo che dobbiamo andare in giornale radio, la seconda ora di Uno Nessuno 100 Milan inizia, anzi la terza mezz'ora, fine 10:30, subito dopo, se ha pazienza Roberto da Vicenza, ripartiamo da lui come ascoltatore. Ci sono anche i figli miei che vorranno salutare l'ascoltatrice, l'ascoltatrice e i figli dell'ascoltatrice di Bergamo, che ieri ci ha scritto dicendo che attendono tanto una loro incursione, e quindi oggi faremo questa carambata. Va bene, andiamo tutti a fare assembramenti al giornale radio. Uno, nessuno, 100 Milan. Eccolo, è saltato fuori il Novax. Era un po' di tempo che non li sentivamo. Io quelli che iniziano la telefonata con "ma l'influenza normale ha fatto più morti del Covid", io quelli toglierei il diritto di voto, proprio in seduta stante. Non voti più, ciao. Ciao Ale, le chiede gentilmente a quel sangano de Manera quanto le danno le case produttrici de vaporiera, quella robaccia là, per dire tutta questa pubblicità? Perché mi sembra un po' strano, quello non ha mai pulito in vita sua. Effettivamente è un po' strano, questa passione per la pulizia. Quanto ti danno? Perché in questo momento di crisi devi tirare su soldi un po' in qualche modo, no? Quindi con la pistola a vapore. Mi dispiace che la mia addirittura morale venga messa in dubbio, sì, da questo ascoltatore. Io non accetterei mai denaro, ecco, da nessuno. Ecco, vabbè, se non da noi. Allora, qualcosa. Sì, volevi dare il tuo IBAN, ti ricordo. Aspetta però che sì, c'è un momento importante, perché Paola, che ci ha mandato questa mail da Bergamo ieri, mamma di Fabio e Anna, Fabio seconda media e Anna terza elementare, dice che soprattutto Anna, ma anche Fabio attende sempre Beniamino, mentre Anna non vede l'ora di sentire un saluto ogni tanto da Angelica Mattia. Allora li ho distratti dalla scuola per un attimo. Angelica, vuoi salutare Anna? Ciao Anna, un bacione da Angie. Va bene, fa la terza elementare Anna, è difficile. Per nulla, verrai promossa Anna. Esatto. Tu Mattia vuoi salutare anche tu Anna? Ciao Anna, ciao Fabio, un bacione anche da me. Va bene, ecco, bene, abbiamo fatto questa piccola carambata, adesso potete tornare pure a scuola, perché se la prof ti becca qui, caro Mattia, ti segna che sei assente, lo stesso anche per Angelica. Quando Beniamino vorrà salutare Anna e Fabio, Beniamino non è con me oggi, quindi la settimana prossima. Certo. Va bene, tanto i saluti valgono sempre. Va bene, allora, quindi appurato il fatto che tu prendi dei soldi, questo l'abbiamo detto, ma quanto ti danno? Perché hai ciurlato nel manico, ma non hai risposto. Le case produttrici di pistole a vapore? Sì, sì. Ma devo ancora accordarmi esattamente, siamo intorno ai 10.000 al mese. 10.000 al mese, qui ci vorrebbe il De Luca, caro Alpino. Il consumatore abusivo di ossigeno. Ma poi magari allora, c'è qualcuno che ci crede davvero, niente, prendo, lo faccio perché non ho niente da fare, sto tutto il giorno con la pistola a vapore. Ah, pensavo ormai non ho più niente da perdere. Allora, Roberto da Vicenza, grazie della pazienza, eccoci qua. Roberto, buongiorno. Buongiorno Milan, buongiorno, sì, anche a Vestaglione Manera. Allora, vorrei aderire all'ora d'aria indotta dall'indolente Manera, con questa piccola osservazione. In quest'ultima settimana, andando a fare la spesa, vengo colpito da folate di profumo che mi arrivano alle spalle dalle varie signore e signorine presenti al supermarket. Credo che oggi il supermarket sia rimasto l'unico luogo di aggregazione sociale che ci è permesso di frequentare. E quindi la cosa è notevolmente simpatica. Tra le altre cose, io sono vestito perfettamente da lavoro, perché faccio delle fughe ogni tanto quando il lavoro mi permette per andare a fare la spesa, e nonostante questo vedo che le signore apprezzano anche l'uomo che è vestito da lavoro. Ho capito, quindi cioè per lei, cioè, lei sta... file dei supermercati devono diventare dei nuovi luoghi di incontro. Sono a tutti gli effetti un momento di aggregazione sociale, e forse Vesteglione Manera dovrebbe frequentarli di più e tenere lì dare l'inizio alla sua nuova carriera artistica. Sì, ecco. Ma potrebbe essere. Lei ci sta dicendo che utilizza il supermercato per provarci, praticamente, con quelle signore che ci sono. Caro Manera, io non ci provo. Io sono vittima della situazione. Roberto, il Don Giovanni Roberto da Vicenza. Roberto, grazie. Comunque si è ringalluzzito in queste code di supermercato, Roberto da Vicenza. Va bene, Carlo. Comunque ne parlavo io ieri, lo dicevo ieri, no? Nel pezzo che ho fatto ieri, che dentro il supermercato mi sono lanciato questo sguardo a questa signora che me l'ha ricambiato. E gli sguardi si ricambiano solo dentro il supermercato, perché quando sei in fila fuori non succede. Quindi è vero quello che diceva l'ascoltatore. Carlo da Cuneo, eccoci. Sì, pronto? Prego. Buongiorno Milan e buongiorno a Manera, vi ascolto sempre con molto piacere. Allora, volevo solo esprimere la mia opinione sull'intervento del signore di prima, premettendo che non sono né uno scienziato né un medico, e quindi posso solo esprimere la mia semplicissima opinione. Ma il primo punto che vorrei esprimere è che l'Istituto Superiore della Sanità ha detto sin dall'inizio a terre lettere che relativamente ai decessi bisogna aspettare l'esame delle cartelle cliniche e quindi sarebbe prudente non diffondere dati. E la seconda cosa, trovo un po' strano che il patto trasversale per la scienza, insomma, debba andare avanti a querele invece che confutare in modo gentile le opinioni di altre persone, che poi siano scienziati o meno, io questo non so chi abbia ragione, ma insomma mi parrebbe opportuno per tutti che si mettessero insieme a lavorare e tutti quanti ci diano una risposta. Cioè lei dice invece che querelare è confutino, ma forse perché il confutare, non lo so, questa è una linea effettivamente interessante, la sua osservazione riguardo all'Istituto Superiore di Sanità, sì è vero, però dopodiché i dati che vengono snocciolati anche in maniera fredda ogni giorno dal capo della protezione civile, e ci sono dati che verranno controllati e sono controllati dall'Istituto Superiore di Sanità. Comunque Carlo, grazie per questo intervento. Ieri abbiamo introdotto questo tema che ci permette di introdurre il nostro ospite, perché ieri un ascoltatore ha detto: ma scusate, non ci sono abbastanza computer per la didattica online? Abbiamo scoperto addirittura che per l'Istat ci sono regioni come la Calabria e la Sicilia dove il 40% di famiglie non ha un computer. Detto che, lo dico per inciso, la didattica online si può fare anche con lo smartphone e quelli sono abbastanza diffusi, ma sarebbe meglio un computer, che sennò lo smartphone dà distrazioni, anche il computer. Comunque c'è una persona che abbiamo individuato e che saluto, Riccardo Palombo. Buongiorno e benvenuto Riccardo. Salve, buongiorno a voi. Allora, Riccardo Palombo è un blogger, esperto di tecnologia, che ha avviato questa iniziativa, un'iniziativa benefica, secondo me da sottolineare, che è questa: Restauro PC per le scuole. Cioè Riccardo Palombo, ma adesso ci spiega bene come, accetta i PC delle persone, i computer delle persone che vogliono darlo, magari perché sono un po' vecchiotti, se ne vogliono disfare, lui li rimette in sesto e li dona alle scuole o agli studenti che per fare la didattica online. In sintesi è così, Palombo? Sì, esattamente così. Io chiedo, ho iniziato 2 settimane fa chiedendo ai ragazzi della mia community se avevano vecchi computer, vecchi portatili, soprattutto sto cercando solo portatili perché sono più semplici da muovere e via dicendo, e quindi hanno iniziato loro a mandarmi questi computer a casa. Io li prendo, faccio una prima selezione subito in via email, no, al primo contatto, poi li prendo, pulisco, cambio i componenti che vanno sostituiti, cambio le batterie, installo nuovi sistemi operativi a seconda della loro potenza, e poi contemporaneamente ho chiesto alle scuole, ai presidi, agli insegnanti di contattarmi, di farmi sapere, di dirmi le loro richieste. E in questo momento abbiamo, perché siamo io e la mia ragazza che mi dà una mano in questo momento a casa, però abbiamo mosso una 65ina di computer, io ne ho già 37 a casa, 30 in arrivo. Stupendo. E abbiamo spedito 21 computer in questo momento, stamattina è partito un altro pacco da 4, ne diamo 2 o 3 a scuola, insomma a seconda della richiesta, di quello che devono fare, perché poi tanti di questi computer sono, non dico troppo vecchi, ma magari sono piccoli, e c'è anche un po' di caos negli insegnanti, non sanno esattamente di cosa hanno bisogno, non sanno quale piattaforma software usano, e quindi sto cercando insomma di dare computer utili che poi possano magari, certo, restare, o comunque possano essere utili anche dopo. No, ma questo è molto interessante. Allora, facciamo così, un minuto di informazioni sul traffico e poi ci spiega tutti i dettagli Riccardo Palombo, perché io non lo so se ha fatto bene accettare questa intervista, perché poi dopo daremo i dettagli e magari sarà inondato di nuovi altri computer da sistemare. Farà quel che potrà. Però traffico, e poi Riccardo Palombo ci dà tutti i dettagli di questa iniziativa partita dal basso, non dalle istituzioni, per cercare di dare una risposta concreta. Vai Alpino. Uno, nessuno, 100 Milan. Pensa te se ci deve essere pensiero unico e uno non deve essere libero di pensarla diversamente. Il dottor Montanari ha studiato le nanoparticelle insieme a sua moglie, ma io non lo so, ma è proprio negare la verità, ma siete proprio asserviti al potere dei vaccini. Servite al potere dei vaccini, lo sapevo che andava a finire così. Amen, amen. Anche sta giornata è andata in vacca su questo tema. Riccardo Palombo, restauro PC per le scuole, iniziativa benefica. Allora, intanto, Palombo, come si fa se uno volesse dire: oh, che bella iniziativa, voglio dare un PC a Riccardo Palombo perché poi lo possa donare a qualcuno? Allora, prima cosa, deve essere un computer completamente funzionante, non rotto, quindi con uno schermo integro, tastiera integra, tutti i componenti diciamo attaccati, perché è arrivato anche qualcosa di distrutto. Mi può contattare gente semplicemente che vuol rottamare via mail. Vuol rottamare la Dracolombo. Esatto. Ecco, non fate così, esatto, non fate così. Esatto. Mi può contattare direttamente via mail, la mail è email, ho scritto email, chiocciolina riccardo.im, Imola Milano. Anche sul mio sito, altrimenti se cercate Riccardo Palombo su Google c'è il sito, poi c'è contatti e da lì si può contattare, mi scrive quello, certo, che ha, io rispondo, se ha una foto, meglio una foto, così vedo subito cos'è e valutiamo insieme se vale o meno la pena prenderlo, poi mando io un corriere a casa già pagato a ritirarlo, se la persona vuole, perché contemporaneamente ho attivato un sistema di donazioni per pagare queste spese, le batterie, gli alimentatori, la RAM, i dischi, gli hard disk. E le donazioni sono sopra i 7.600 euro in questo momento. Molto, ecco, perché questo è un aspetto importante, cioè chi non ha un PC potrebbe voler fare una piccola donazione, dare 10, esatto, euro, 15 euro, 20 euro, perché Riccardo Palombo tutti questi PC li sistema grazie alle donazioni. Quindi è bella, è doppia l'iniziativa benefica. Chi dona soldi per permettere a Riccardo Palombo di sistemare gratuitamente PC. Esatto, esatto, anche le spedizioni per le scuole paghiamo tutto noi, pago tutto io. In questo momento abbiamo speso circa 1.800 dei soldi entrati. E niente, poi una volta che mi arriva il computer, io lo sistemo, contatto, è tutto pubblico, perché io poi metto tutto pubblico su YouTube, sul mio canale YouTube. Ogni venerdì faccio un po' il resoconto, ma diciamo che tutti i giorni su Instagram, su Twitter, insomma, su social network, su Telegram, comunico quando arriva il computer, di chi è. Cosa ci faccio, perché poi io mi diverto tantissimo a livello software, installare, insomma è una cosa che mi piace ovviamente, e è tutto qua. L'unica richiesta che posso, che posso fare, l'unica richiesta che ho è quella relativa alle scuole, perché io non voglio, non posso inviare direttamente il computer agli alunni o ai genitori, mi deve arrivare un contatto dalla scuola, basta una mail. Ok. Però poi io faccio la donazione alla scuola, poi la scuola, certo, deciderà. E poi la scuola provvederà. Esatto. Allora, la cosa importante è questa, email, scritto proprio così, email, chiocciola, sì, riccardo.im, Imola Modena. Questa è la mail, oppure Riccardo Palombo, il sito, lo trovate su YouTube. Beh, Leonardo, questa è una cosa, non so, tu hai... È straordinaria, perché... Sì, stanno tornando in auge le riparazioni, vuol dire che si può riparare, che ci dicevano sempre tutte le cose, ma non ne vale la pena, meglio buttarlo via, prenderne uno nuovo. Invece no, questa già è una grande notizia, si può riparare anche un computer relativamente vecchio, si possono installare software e hardware nuovi. Esatto, esatto, sì, assolutamente, basta, diciamo, io qua ho anche computer di 10-11 anni fa, e vanno anche, sotto certi punti di vista, è una questione tecnica, ma vanno anche meglio di certe macchine attuali, perché comunque sono macchine che erano nate prima per essere molto potenti e durare tanti anni. Certi computer vecchissimi, per esempio, si smontano completamente, no? Sono tutti tenuti insieme dalle viti, mentre i modelli nuovi sono tutti tenuti insieme dalla colla, quindi una volta che li apri non ci fai più nulla. Questi sì, diciamo che sì. Però è bella questa cosa, cioè, perché effettivamente è una risposta concreta a chi dice, ed è vero, l'Istat, non ci sono gli strumenti per fare la didattica online per tutti, soprattutto se dovesse riprendere la scuola a settembre e ancora ci dovessimo trovare in questa situazione, magari inizialmente, speriamo davvero di no, però una risposta concreta c'è. Quante, vi siete dati un'idea di quante computer potrete alla fine restaurare e donare, Riccardo? Adesso siamo, come dicevo, poco sotto i 70, io spero di arrivare a 100, cioè punto ad arrivare a 100, anche perché questo non è il mio lavoro, io ho interrotto completamente il mio lavoro per fare questa cosa e vorrei, insomma, tornare alla mia vita, perché è una cosa che ci tiene ovviamente occupati tutto il giorno. Io spero di arrivare a 100, insomma, muovere 100 macchine, poi tanti di quei soldi resteranno e dopo vedremo cosa fare con il resto, donazioni. Posso fare un'ultima domanda, una curiosità? Vai. Ecco, volevo sapere se riparare, diciamo così, computer insieme alla fidanzata crea armonia o crea dei dissapori che porteranno poi alla separazione. No, no, ma è stata lei a proporsi per rispondere alle mail, fa tutta questa parte che veramente porta via tantissimo tempo, rispondere ai paesi, di rispondere agli alunni. No, perché Riccardo, diciamolo bene, perché Leonardo è da un po' che non lancia il suo mantra sull'amore, che ricordiamo, Leonardo è vogliamo dirlo, destinato a finire sempre e comunque, ma invece volevo, ecco, sapere se in questo caso invece l'amore la finisce sempre procede, comunque, questo, sì, invece pare che in questo caso l'amore proceda serenamente grazie a questa attività che state ai PC. Va bene, noi ringraziamo ancora Riccardo Palombo, ricordo email @riccardo.im Imola Modena, ma se non l'avete colta, come al solito c'è la nostra mail 100milan@radio24.it, voi scrivete a noi e noi vi diciamo come fare. Se volete donare a una scuola, a un allievo, un vecchio vostro PC, datelo a Riccardo che lo sistema e lo dona. Allora, c'è Ernesto da Roma. Ernesto, buongiorno. Buongiorno. Attenti a quei due, eh? Attenti a quei due, sì. Vabbè. Leonardo Moore e Alessandro Carter. Sì, sì. Senti, vabbè, una domanda, gentilmente. Leonardo ha anche più soldi di Roger Moore, però insomma questa è un'altra questione. Prego. Complimenti a lui. Complimenti a lui. Io vorrei sapere una cosa che io non ho capito. Ogni giorno Angelo Borrelli dà il bollettino dei contagiati, dei morti e così via. Sì. Dice ci sono in Italia tanti contagiati, ma quelli guariti e quelli morti sono da scavare su quelli contagiati? Io non l'ho mai capito. Guardi, il numero dei contagiati, se posso darle un mio consiglio, un mio parere, io Ernesto proprio me lo giocherei al lotto, perché ha sentito in realtà che c'è tutta la questione di asintomatici, secondo alcune previsioni in realtà i contagiati in Italia sarebbero 5-6 milioni, no? Cioè di persone che in realtà il virus ce l'hanno, hanno prodotto gli anticorpi, hanno fatto a casa, non hanno avuto sintomi, e quelli, finché non si va a controllare a 60 milioni di italiani se hanno gli anticorpi, è una cifra che sinceramente lascia un po' il tempo che trova, cioè sono i contagiati, quelli accertati perché hanno fatto il tampone, ma Non lo so, poi lei mi dice vanno scalati, quelli che sono guariti sono ex contagiati, non lo so, ecco, questo è si un dedichi altro ad altro, sottotema. Le do un consiglio, anche lei si dedichi a riparare i computer e non pensi più al numero dei contagiati, che sono numeri ballerini. Ci segua ballerini. Nel giorno in cui faremo la puntata ora e mezza d'aria, in cui parleremo di altro e non del coronavirus. Totalmente di altro, come se il coronavirus non esistesse, secondo non me esistesse. Non è un'idea da buttare via per una volta alla settimana. Si potrebbe fare, adesso ci pensiamo nella riunione in cui tu sei quotidianamente escluso. Federico Taddia, buongiorno Federico. Buongiorno, eccoci qua. Come ciao, stai? Abbastanza bene, voi anche? Tutto in bene, maniera sì, insofferente, sì, ma... Come sempre. Lui, perché ha tutti i suoi pacchi di euro a casa e non sa come spenderli, cioè quindi se li... Sai che è tornato a fumare con Mauro Meazza. Chissà quanti affari sta facendo Mauro Meazza in questi giorni. Vabbè. Federico, dai, prego. Allora, due idee per oggi. Allora, la prima è quella di sfidare a memory gli insegnanti. Allora, questa l'idea di oggi prevede che i ragazzi si mettano un po' d'accordo con i compagni di classe per sfidare la maestra, il maestro, il professore, la professoressa, perché ormai insomma è un mesetto che i docenti non vedono i ragazzi. Tanti fanno la scuola online, tanti lo fanno con la telecamera accesa, ma tanti altri è veramente un mese che non si vedono. In un mese i bambini cambiano tantissimo, quindi la sfida è capire se gli insegnanti si ricordano ancora di come sono fatti i propri alunni. Sì. Il ragazzo o il bambino che deve organizzare questo gioco deve chiedere una foto a tutti i compagni di classe ripresa dal di dietro, quindi seduto nella sua scrivania, una bella foto da di dietro, dove si vede solo proprio la testa e le spalle, no? Spesso con delle capigliature ormai, come ha detto un compagno di Mattia, sto diventando Tarzan. Infatti noi vogliamo fare proprio una bella foto di classe di tutte le capigliature, la componiamo oppure le mandiamo singolarmente al prof, all'insegnante, e vogliamo una risposta esatta, deve riuscire ad abbinare, certo, ogni Federico, foto è da tre giorni che ci scrivono insegnanti perché dicono, io non è vero che ho detto che lavorino poco in questo momento, non l'ho assolutamente detto, adesso dobbiamo far fare anche questo gioco in più, va bene, ho capito, certo. Cari insegnanti, vi tocca anche questo gioco, bene. Facciamo giocare assolutamente, quindi un bel memory per gli insegnanti, hanno tutte le vacanze di Pasqua appunto non dirlo che poi dopo si arrabbiano. Poi secondo me non è un gioco, ma è un suggerimento, visto che sarà una Pasqua particolare, sarà una Pasqua diversa, sarà una Pasqua dove non usciremo di casa, può essere l'anno in cui fare anche noi l'albero di Pasqua. Sapete che è una tradizione nordica di fare, appunto, non prendete l'albero di Natale perché insomma quello mi pare troppo, però un bel rametto, una piccola pianta che c'è in casa e decorarla con le uova decorate, che adornarla con le uova decorate da appendere. Ci sono mille tutorial su come poter colorare, decorare, fare le uova. Credo che possa essere un modo bello, soprattutto per le bambine e bambini più piccoli, per vivere in maniera un po' diversa questa Pasqua. Un bel albero di Pasqua, sbizzarritevi. Fede, ci sentiamo domani, caro Leonardo Manera. Nel dover chiudere questa puntata, hai sempre questo compito gravoso di lanciare un messaggio all'umanità intera. Apro la finestra, ecco fatto, e il mio grido è questo: più sto dentro, più vado fuori! Uno, nessuno.